Welcome, ladies and gentlemen. Start now on the clandestino chip. Buonasera, buonasera, si ritorna con Clandestino Cid, la terza puntata della nuova stagione, sempre in onda su Fuori Onda Radio. Ok, andiamo a presentare gli ospiti di questa sera. Direttamente dal Burundi abbiamo... Buonasera, mi chiamo Quizera Olivier e vengo dal Burundi, vi saluto tutti. È immancabile alla sala macchine il nostro speaker di fiducia. Ciao, buonasera. Ciao. Beh, una puntata tutta da scoprire. Passiamo subito al prossimo pezzo, Pep. Un pezzo dei Crifu, Mediterraneo. Mediterraneo, il mare tra le terre, che la gente supporta. Per questo sei bella, con un sei de morta ed è tanto. Che ogni bacio ha potere, generali mostri che li sanno divorare ed è tanto. Che il mare diffonde, rabbia e passione si mescano alle onde. Ritornerà, abbandonando le guerre, verso il mare andrà. Nel mar Mediterraneo, il mare tra le terre, mar Mediterraneo, il mare tra le terre, mar Mediterraneo, il mare tra le terre, mar Mediterraneo, il mare tra le terre, mar Mediterraneo. Io magrebino, turco algerino, berbero libico, greco iracheno, io tunisino, io marocchino, siriano andaluso, occitano sloveno, montenegrino, bosniaco croato, palestinese, israeliano egiziano, io libanese, io albanese, io salentino, io italiano, figlio del mare che in mezzo alle terre, figlio di terre abbracciate dal mare, che unisce la storia, la tradizione, cultura, memoria, musica, parole, rock and rai, life and music, un mondo nuovo a due passi da qui. Sta danzando sull'onda, danziamo sull'onda del mare che bagna le terre, del mare tra le terre, sì, mar Mediterraneo. Ok, Clandestino Cid in onda, sempre su Fuori Onda Radio. Un tempo praticamente di merda, se è lecito dirlo in radio, non mi interessa. Comunque, una seratina abbastanza fredda, cerchiamo di riscaldarla a modo nostro. Ok, partiamo subito con l'intervista al nostro ospite. Il nostro ospite che viene dal Burundi, iniziamo. Olivier, quando arrivi in Italia? Io sono arrivato in settembre 2010. Ragioni di studio? Sì, perché ho avuto una borsa di studio e era la prima volta pure che vado all'estero. Prime considerazioni appena arrivati in Italia? È un bello paese, solo che i primi giorni mi sembrava che tutto è cambiato, però dopo aver avuto gli amici con chi parlare ho trovato che praticamente era come a casa mia. Quindi praticamente hai trovato un paese aperto, ma a livello socialmente parlando. Hai avuto problemi del tipo di integrazione, non lo so, discriminazioni di qualche tipo? Praticamente non ho mai avuto questi problemi. Solo i primi giorni che perché non conoscevo niente di dell'italiano, però a parte questo non ho avuto mai problemi con le persone, discriminazioni, niente. Perfetto, almeno qualcosa di positivo si sente ogni tanto. Ti va di parlarci del tuo paese, della tua città, da dove arrivi? Sì, come l'avevo detto prima, il mio paese è Burundi. Si trova, diciamo, all'Africa dell'Est. Fa confine con il Congo, all'ovest, all'est c'è il Tanzania e al nord c'è il Ruanda. È un paese, diciamo, che non è tanto grande in termini di superficie, perché è, se non mi sbaglio, a 28.384 km quadrati. La popolazione adesso arriva a 8 milioni. È un paese che, dove si trova il secondo lago nella profondità nel mondo, che si chiama Tanganyika, non lo so se... è un lago famoso, diciamo, che tanti lo conoscono, l'hanno imparato, diciamo, in geografia. Perfetto, passiamo a un pezzo che ha portato il nostro ospite, se ti va di commentarlo, spiegarlo. Sì, la canzone si chiama Il est beau mon pays Burundi. È una canzone, il titolo è in francese, però ci sono pure qualche parole in Kirundi. Praticamente presenta come il Burundi, e presenta, diciamo, se uno viene per la prima volta come il Burundi, la sua cultura, dove, quali posti visitare, e, diciamo, in generale. Il est beau. Il est beau, beau, beau, mon pays. Oh, il est beau, mon pays, Burundi. Il est beau, il est beau. Oh, il est beau, mon pays, Burundi. Il est beau, comme il est beau. Beau, comme il est beau. À Bujumbura, la belle plage du lac Tanganyika, le soleil, les empires, les bureaux, les bons poissons, Mukeke Nandagala, Hippopotamza Crocoli, Dalarusisi, dans notre capitale, bon accueil, souris, ambiance confort vous serviront. Il est beau, il est beau mon pays. Oh, il est beau, mon pays Burundi. Il est beau, il est beau. Oh, il est beau, mon pays Burundi. Il est beau, comme il est beau. Si tu vas au sud, la pierre Livingstone est dans le lac. Tu continues, tu trouveras la forêt Rimba. A Kiwena, avec beaucoup de singe. Tu arrives à Bururi, exactement à Rutobu. Tu verras la source du Ming. Les autres malais, toujours à Bururi. À Makamba, la danse à Gassimbo. Umuyebe Daringo, Uguede Mwemukumaso. Tu verras la suite de nous. Il est beau, il est beau, beau, beau. Si tu montes au sein, Agitega, Agisora, là où mène le tam-tam, Kayenda, Rukinzo, le tambour sacré, l'arbre du centre du pays. Ainsi que le musée national. Il est beau, il est beau mon pays. Oh, il est beau mon pays Burundi. Il est beau. Oh, il est beau. Sose, le thé, café, la bière et les bananes, à Kawa Murukuza, les lacs aux oiseaux, tout à il est beau, il est beau, comme il est beau, les rivières, les collines, les forêts naturelles. bere fanno. E ritorniamo qui, aula occupata P2, a riparlare del Burundi con il nostro ospite. Informiamo tutti gli abitanti delle Masonet, delle case dello studente dell'Università della Calabria, che da questa puntata è possibile interagire con e ascoltare liberamente Clandestino Cid. C'è un tempo da paura fuori. Si sta pensando di far una piccola sosta notturna anche qui in aula. Ok, Oliver, continuiamo con la nostra intervista. Prima si parlava dei paesi colonizzatori che occuparono all'epoca il Burundi. Noi di Clandestino vogliamo sapere le tue considerazioni al riguardo, naturalmente, come dicevi prima, sul lato positivo e sul lato negativo. Grazie. Quello che posso dire sulla colonizzazione non sono tante cose, però posso dire che sempre quando c'è qualcosa c'è sempre una cosa, diciamo un lato positivo e un lato negativo. Per esempio, io posso dire che praticamente senza il colonizzatore non c'era, noi non studiavamo. Questo penso che è giusto. E poi questo è un esempio, poi ci sono tante altre cose, diciamo. È vero che c'era la cultura, anche Burundi, diciamo, è tra i paesi dove c'è la cultura, diciamo, forte. E poi c'è stata pure la colonizzazione, poi c'è un'altra cultura che è venuta, anche se c'è sempre la cultura burundese. E la cosa che posso dire di negativo, come lo sappiamo tutti noi, è che i colonizzatori non trattavano bene le persone, questo è ovvio. E quindi, diciamo, non ci sono tante cose da dire, ma ci sono sempre cose positive e altre negative. Benissimo, Peppe, vuoi aggiungere qualcosa? Ti passo la palla. Ok, sul fatto dei paesi colonizzatori in Africa ci sarebbe a parlare per ore e ore. Ricordiamo che il vecchio continente, come l'Europa e l'America ora, stanno conquistando queste nazioni che erano sottosviluppate, quindi però erano ricche di materie prime come e materie preziose, quindi sono andati a rubare tutte le risorse, e quindi questo è un colonialismo. Noi di Clandestino siamo contro il colonialismo, noi vorremmo che ogni nazione fosse libera, che non sia sotto nessuno, che i cittadini siano liberi, che hanno portato anche istruzione, dicevo, Olivier, e altre cose, però secondo il mio modo di pensare i vantaggi sono sempre inferiori agli svantaggi. Hanno lasciato un sacco, ricordiamo come parecchi documentari ne parlino di questo, che sono stati costruiti dei macchinari per andare a estrarre le materie prime in questi posti, e poi sono stati lasciati là i rifiuti. Nelle coste della Somalia, per esempio, sono stati, dato che la Somalia è uno stato abbastanza complicato, una situazione politica somala, sulle loro coste sono stati abbandonati un sacco di rifiuti da parte europea, con l'avallo di alcuni governanti locali, perché alla fine i governanti vengono, in queste nazioni deboli, vengono piazzati dagli interessi europei e americani, quindi danno le armi ai dittatori, in pratica, e purtroppo le popolazioni vengono sottomesse spesso da questi dittatori. Olivia, tu vuoi aggiungere qualcosa su questa situazione? Grazie della parola. Allora, non posso dire tante cose su questo perché non lo conosco bene, però come lo dici tu, penso che è giusto quello che hai detto, ma non posso dire tante cose perché veramente ci vorrebbe che leggo e vedo, diciamo, faccio delle ricerche. Infatti purtroppo la storia passata è oscura ad alcune persone, perché a scuola, per esempio, anche qui in Italia, dopo la dittatura fascista, diciamo che i libri sono stati un pochettino manovrati e quindi non si sapeva quello che succedeva. Quando c'è il regime va tutto bene, quindi bisogna studiare per capire le situazioni e capire come va il mondo. E mandiamo una canzone, Cicciolo. Mandiamo un pezzo di mandiamo un altro pezzo del parte delle nuvole pesanti. Andiamo con questo pezzo. A proposito del discorso che si faceva prima su paesi colonizzatori che optano di nascondersi dietro un dito celando la vera democrazia, ad Oslo proprio ieri sono attuate delle proteste per quanto riguarda il premio Nobel all'Unione Europea. Ci mancava soltanto questo, naturalmente un paese così civile e progredito, portatore di pace nel mondo, naturalmente regalare il premio Nobel mi sembrava una cosa più che giusta. Si fa per dire. Ritorniamo con il nostro ospite, volevo farle ancora delle domande su, non lo so, su un futuro magari se ha progetti per il futuro, se ha intenzione di rimanere qui in Italia oppure ritornare alla propria terra, non lo so, andare in giro in qualche altro paese europeo o in un'altra nazione. È veramente il futuro, ci penso. Per il momento penso a finire a studiare e poi vorrei, il mio obiettivo è di ritornare al mio paese, ma per il momento non posso dire quando ci ritorno perché non so quando finisco, diciamo. E poi magari può succedere pure che cerco di fare un'esperienza di lavoro qua, ma l'obiettivo ultimo è di ritornare al mio paese. E noi di Clandestino G ti auguriamo tante belle cose. Ok Peppe, possiamo passare al prossimo pezzo del nostro ospite e lancio la parola direttamente a lui se vuole commentarlo in qualche modo. Sì, la canzone si chiama Umugamba Winga. Umugamba Winga è una parola in Kirundi, che è la mia lingua madre. E tradizionalmente in Burundi c'era la mucca, aveva un gran valore perché si usava, diciamo, per la dot. Pure adesso si usa spesso, quindi si cantava spesso, diciamo, a raccontare i suoi beni. E quindi questa canzone racconta tutto quello che con la mucca, tutto quello che si può fare, si può cercare la moglie, si può avere, diciamo, latte, quindi ci sono tante cose. C'è pure può essere usato pure per le culture, diciamo, quindi ha tanti valori nella nostra cultura. Suona per Mugamba Winga. 22:33, sintonizzati su Fuori Onda Radio Clandestino Cid, sempre in diretta dall'aula occupata P2, Università della Calabria. Eravamo insieme al nostro ospite dal Burundi a commentare questo magnifico pezzo. Appunto ci spiegava il significato stesso anche di un animale, quale la mucca, che riesce a dare nutrimento sia all'uomo che alla terra stessa. Diciamo, sottolineando un certo un senso di ciclo, il proprio ciclo naturale, un ringraziamento stesso alla madre natura. A proposito di animali, vorrei spostarmi su qualcosa di veramente obbrobioso che ho letto l'altro giorno: campi sterminati dove polli non nascono ma vengono coltivati. Praticamente, Olivier, si hanno delle incubatrici dove arrivano i pulcini appena nati. Alcuni operai hanno il compito di separare i maschi dalle femmine. Le femmine saranno usate per produrre uova da vendere, i maschi invece sono inutili perché non producono uova, non sono della razza giusta per diventare dei polli da carne. E cosa viene fatto con questi maschi? Praticamente, appena nati, gli viene tagliato il becco, così provocando comunque dei danni anche al sistema nervoso dell'animale stesso, perché ci sono le nervature che portano al becco. Successivamente vengono buttati così nell'immondizia, nei sacchi o macellati direttamente. Per produrre cosa? Per andare a produrre uova su uova da allevamenti che sono qualcosa di inimmaginabile all'occhio dell'uomo, ma noi cosa facciamo? Andiamo a comprare nei supermercati queste uova e non sappiamo nemmeno da dove provengono. Beh, Clandestino ci dice attenti, attenti a quello che si va a comprare, perché, e denuncia questa cosa, i polli, non lo so, come dicevi tu prima per la mucca, sono degli animali. E ricollegandoci, non lo so, a volte si sente sempre parlare dei cani, dei gatti, nulla togliendo a loro, ma anche gli altri animali hanno bisogno di essere puntati con qualche riguardo in più, parlarne di più. La cosa che ho letto mi ha fatto veramente dispiacere, ma dispiacere in tanti sensi, nel senso anche del fatto che andare a mangiare qualcosa che viene così prodotto così crudelmente, questi polli chiusi in delle gabbie piccolissime, e alla fine c'era scritto anche che i pulcini stessi vengono in un certo modo selezionati, le vengono tagliate dei pezzi perché devono riuscire a entrare in queste gabbie per produrre queste uova. Questi sono gli allevamenti di massa che sconsigliamo e che attacchiamo gli allevamenti di massa perché non c'è più il senso del biologico, si perde il senso del vero nutrimento. Per favore, vuoi dire qualcosa tu, Olivier? Io direi che anche se gli animali ci servono, diciamo, per nutrirci, direi che pure loro devono essere, come dire, trattati, diciamo, come esseri viventi. Quindi anche se uno deve mangiare, come dire, il pollo, anche prima di ucciderlo dovrebbe essere fare in modo che sia diciamo il minimo dolore. Io direi questo. E quindi cercare il modo di minimizzare il dolore. E perché anche se non sono gli uomini, sono comunque degli animali, quindi sentono il dolore. E un'altra cosa che direi che non lo so come si dice in italiano, però c'è un termine che si chiama OGM. Sì, quindi avevo un giorno letto che sono delle cose pericolose perché cambiano la genetica dell'animale, anche diciamo dei frutti, tutto questo qua. Quindi sicuramente può causare dei problemi. non sono un specialistico di questo, però diciamo che, come lo diceva Ciccio, dovremmo essere attenti a quello che mangiamo, a quello che compriamo nei supermercati. Questo sì, essere contrari agli allevamenti di massa, anche nella cultura stessa, e magari favorire, non lo so, il fruttivendolo, il macellaio di fiducia, o della piccola bottega a volte. Altra denuncia che vorrei fare anche alla a Zara, il marchio di Ecopelle, così chiamata, che è la nostra denuncia, ci arriva dai ragazzi Greenpeace. Praticamente Zara nel 2011 disse no ai capi comunque prodotti da animali, e diede via a queste a questi capi di Ecopelle, comunque prodotti con sostanze sintetiche che comunque vanno a portare del male all'uomo stesso, perché contengono le sostanze pericolose, sostanze chimiche che praticamente vengono assorbite pian piano dalla pelle, provocando malesseri di tipo cancerogeni. Peppe, ti lancio la palla, fate liberamente. No, volevo aggiungere una cosa a quello che avevi detto prima sul fatto degli animali. Quella. E anche l'agricoltura ha avuto un bel colpo grazie al nostro premier, ex premier ormai forse, Mario Monti, non sappiamo se il votatissimo Mario Monti, che è stato eletto dal 100% degli italiani, adesso il nominato Mario Monti da napoletano, ha fatto un ricorso alla Corte Costituzionale contro l'agricoltura a chilometro zero. In pratica il governo vuole bloccare alcuni atti normativi della regione Calabria, rea di aver legiferato oltre le sue competenze stabilite in materia. In pratica la Calabria ha fatto delle leggi che tutelano le aziende locali e le merci a chilometro zero, e siccome Monti dice che questo è contro i principi dell'Unione Europea, dove le merci devono girare liberamente, le merci, ricordiamo, non le persone, e quindi ha detto che questa è incostituzionale, quindi vuole bloccare queste leggi. In pratica questa bella legge dice che se io produco arance nella mia regione devo andare a comprare dalla Spagna, perché altrimenti sono contro la libera circolazione delle merci per l'Europa. Se io produco acqua devo andare a comprarmela dalle Alpi, perché quella, così sono a favore dei mercati che girano. E noi in Calabria produciamo un sacco di roba, e questa cosa può diventare illegale se il ricorso funziona, e quindi noi siamo costretti a comprare le nostre merci da soltanto le merci che sono iscritte ad un particolare albo, il catalogo ufficiale europeo, devono essere iscritte. Se una merce non è iscritta a questo catalogo non può essere venduta nelle zone. Quindi io, secondo me, è una cosa assurda, perché innanzitutto si incrementa l'inquinamento, proprio perché devono viaggiare camion, quindi si consuma benzina, si consuma gomme, si produce CO2. E se una zona particolare produce olio, produce arance, come in Calabria per esempio, non vedo il motivo per cui dobbiamo andare a comprarle dalla Spagna, dalla Grecia, da non so da dove. Vabbè, questi sono dubbi. L'altro pezzo, vogliamo mandare l'altro pezzo di Olivier. Il pezzo, come si chiama, Olivier? E il pezzo si chiama Kabuto. Allora, Kabuto parla dell'amore tra un uomo e una donna. L'uomo che canta parla che la donna che ha incontrato è la prima di tutte le belle ragazze. Quindi gli uomini capiscono come si si deve parlare alle donne. Ha cavuto. Cacao, toca no tizonari, a cacao, toca. jali tena, si jali tena, si jali tena. Beautiful, beautiful, you are beautiful, beautiful, beautiful, you are beautiful. You are so sexy and I'm so crazy. In love with you, in love with you, in love with you. Ritornati in studio, ricordiamo tutti coloro che sono in ascolto di Clandestino Cid su Fuori Onda Radio che è possibile comunque contattare in momento istantaneamente con noi tramite il nostro contatto Facebook Clandestino Cid o chiamando semplicemente al contatto Skype Clandestino Cid. Punto. clandestino.it. A proposito, c'era Antonio che salutiamo, che ci contatta da Bologna e chiedeva al nostro ospite praticamente la domanda era se è possibile, volevo sapere se anche in Burundi, come in molti paesi africani, ci sono battaglie tra gruppi estremisti autoctoni, c'è stata la spinta delle due superpotenze, America da una parte e Russia dall'altra, durante quelle lotte civili per la democrazia, e forse ancora non è arrivata, e anche se le forze nazionali di liberazione si sono costituiti come partito oppure ancora militano come gruppi ribelli. A te la parola, Olivier. E ringrazio Antonio Bianco da Bologna. E praticamente da noi c'è stata la guerra civile da 1993 fino a 2003-2002. Non posso dire che c'è stata la spinta perché non lo saprei. Perché quando è iniziato io avevo 5 anni. Ma so che c'è stata questa guerra civile, è dovuto, diciamo, direttamente, direi che è dovuta alla politica. E poi se c'è la spinta, questo veramente non lo posso sapere, perché come l'ho detto ero ancora giovane. Comunque se ero grande, se non sono, diciamo, a primi livelli, non posso sapere se c'è la spinta dei superpotenti. Ma direi pure che la lotta della democrazia, so che da noi indipendenti da 1962 fino a 1982, se non mi sbaglio, c'era solo un partito politico. Quindi sicuramente posso dire che pure questo è una causa diretta o indiretta della guerra che c'è stata. Ma prima di terminare a rispondere, direi che per il momento il Burundi è tranquillo. Qui non c'è più la guerra. È vero, ci sono i lotti politici come tutti gli altri paesi, però la guerra tra le popolazioni, l'esercito, tutto è tranquillo. A livello di Stato, che tipo di Stato c'è? Adesso ogni 5 anni ci sono le elezioni. Gli ultimi ci sono stati in giugno 2010. Quindi ogni 5 anni ci sono elezioni, tranquilli. Benissimo, benissimo. Ringraziamo Olivier. Naturalmente stendiamo di nuovo il messaggio. Se qualcuno ha qualche domanda da fare, Olivier è disponibile a rispondere con piacere. Beppe, direi di passare un altro pezzo, no? Banda Bardo? Banda Bardo. Noi abbiamo un enorme, che un giorno arrivino i fricchettoni e prendano il potere e trasformino la nostra vita in qualcosa di più che bello, di più che meraviglioso. Qua ci crediamo, succede, anzi succederà. Questo è un pezzo che sta per iniziare. Maestro, orla. Sarà come stare a letto quando fuori è freddo e piove, come togliersi le scarpe dopo un giorno di gran sole, come correre nudo fin dove non c'è più città e cantare speranza ad una stella che cadrà. Come dare il voto a un uomo o a un ideale senza più dolore, come rapinare banche dicendo solo per favore. Succederà solo se facciamo uscire dalla nostra vita fascia avidità. Sarà come mettere dei fiori nelle teste rasate, sarà come incontrare un uomo, un elfo delle fate. Succederà solo se facciamo entrare le prime voci del mattino, che ora può arrivare, che ora può arrivare, che ora può arrivare. Sarà come stare a letto quando fuori è freddo e piove, come togliersi le scarpe dopo un giorno di gran sole. Succederà solo se facciamo entrare le prime voci del mattino. Cara, può arrivare. Ciao, ciao a tutti, la banda Bardot se ne va in vacanza per un paio di settimane. Ciao, un abbraccio dal cuore della banda Bardot! Siamo tornati qui in studio, sono nell'aula occupata più due dell'Unical. Speriamo che non ci caschi sopra il tetto che sta buttando acqua da un paio d'ore molto forte. Vabbè, siamo qui con il nostro ospite Olivier, con Ciccio che voleva darci... una notizia, no Ciccio, la vuoi dare? Ah, aspetta un secondo prima però, volevamo salutare un po' di persone che ci stanno ascoltando. Volevamo salutare Michela, Alfredo, poi salutiamo Deborah, Natale, Pierpaolo, Tarlo, Alessia, Antonietta, Lorenzo, Luca, i ragazzi del server che... E ricordiamo che mercoledì ci sarà musica per l'ambiente nell'aula occupata P2. Qui una jam session in favore della rete in difesa del territorio, dove suonerà Lorenzo Blues, quindi siete tutti invitati a... Salutiamo Luca Bruno che lo odiamo, dice Lorenzo, perché non vuole venire a musica per l'ambiente, suona la batteria. È un grande batterista Luca, però non vuole venire, non sappiamo perché. Palla a Ciccio, vai Ciccio. E continuo con i saluti. Volevo salutare Antonio, Marco, che non è potuto essere con noi qui in studio stasera a causa maltempo, 30 milioni e tutti i nostri ascoltatori. Adesso, trovandomi di fronte due bellissimi ragazzi come Poppo e Olivier, due ragazzi è dire poco, comunque futuri ingegneri informatici, passiamo un po' la visuale sul mondo dell'informatica e su quello che succede in giro per il mondo, come viene utilizzato queste nuove tecnologie. Praticamente la notizia che vi leggo è, non so da dove arrivi, però il titolo cita: sesso a distanza è reale con gli amici di Facebook. Arriva Love Pulse, la nuova sexy app per iPhone. Praticamente si chiama Love Pulse, è il primo simulatore di sesso virtuale, neanche troppo a distanza, per smartphone. Praticamente ci sono due dispositivi gemelli, Zeus per lui ed Era per lei. Sembrano dei mini piper per fare il pesto, e invece sono due macchinari per il sesso a distanza. Si collegano all'iPhone, si scarica l'applicazione e si dà dentro di brutto. Viva la tecnologia! Viva la tecnologia! Nel fatto che le persone usano veramente. La parola ai posteri. Diciamo che Ciccio, tu trovi sempre le notizie particolari, come l'altra volta, il sesso con le ossa, queste cose qui. Le persone, diciamo che ogni anno di più, ogni giorno di più mi sorprendono. Quando... bah, che c'era di bello fare sesso con un macchinario, non lo so. Diciamo che è così bello il rapporto personale direttamente con le persone, anche se c'è la distanza. Però diciamo che il macchinario non lo so, non lo vedo proprio in maniera strana. Tu Olivia, come lo vedi questo macchinario? Wow. Beh, mi sembra strano veramente. E a fare il sesso a distanza proprio con una macchinetta mi sembra strano. Sarebbe meglio, se uno vuole fare l'amore, farlo con una persona, non usare una macchinetta. Fate l'amore, non fate la guerra. No, ma il fatto, Olivier, è che comunque con il passare degli anni si sono creati proprio degli scudi sociali tramite social network, e comunque secondo me il mal modo di usare le nuove tecnologie, praticamente adesso non lo so, certamente vanno ringraziate tecnologie come lo stesso Facebook, perché ricordiamo la primavera araba che comunque ci fu un incipit grazie a determinati social network, ma adesso non lo so, se ti guardi in giro, poi vorrei sapere tanto le tue considerazioni, ma io non vedo più ragazzi giocare, anche per invitare qualcuno si deve creare per forza qualcosa, un evento, non lo so, insomma c'è bisogno di contattarsi via social network e pensare che delle persone ce l'hanno preso davvero come una droga. Prima guardavo Valterino, aveva taggato una cosa bellissima, la droga del XXI secolo, e c'era una ragazza che sniffava una scritta di Facebook, perché veramente è diventata una droga questo qua. Fa male, ragazzi, fa male, socializzate, andate in giro, fate l'amore. Ciccio, penso che quello che ha detto è giusto. Quindi ci vuole, almeno, anche se c'è Facebook e ci sono Skype, non so, tante applicazioni su internet, penso che non c'è niente che puoi essere al posto di qualcuno che ti, diciamo, se vi incontrate veramente vedi come la persona, il suo umore, tutto questo qua. La tecnologia non ho niente contro, ma ci sono le cose, come ci ha detto, per esempio andare a visitare qualcuno, penso che è sempre buono. E dopo questa interessante conversazione che parla di sesso libero con macchinari e altre cose varie, mandiamo un pezzo di Elite FIBA. Ci sei solo tu. Solo tu, yeah. puoi salvare. Salvare tu mi puoi salvare. E ci arriva una notizia da Antonio, e lo ringraziamo. Morta per troppo sesso, la tragica storia della ninfomane di Monaco. Praticamente c'era questa donna che non sapeva dire no agli uomini e faceva il giro del bar di Monaco in cerca di un partner. Praticamente ci dispiace per questa donna, ma alla fine la sessomania è una malattia veramente brutta che affligge il 60% degli italiani, Olivier. E purtroppo ci sono determinate persone che hanno bisogno di far sesso in continuazione e non sanno dire di no. Questi disturbi vengono protetti poi con il passare del tempo, con l'abuso di droghe, di alcol. Purtroppo sono situazioni veramente catastrofiche. Ma più catastrofica è questa: praticamente una ragazza negli Stati Uniti che fa sesso con due cani, poi lo dice al fidanzato e lui la fa arrestare. Allora, Oliver, il fatto è questo, ritornando sul discorso di prima, cioè si preferisce di più, non lo so, una tecnologia come uno smartphone o un cane, a proposito di un essere umano vero e proprio. Ma che cosa sta succedendo? Non si capisce più niente. Veramente non lo so, è tutto strano. Uno fa il sesso con le applicazioni iPhone, un altro fa sesso con due cani. Qual è il peggio? Strano. Passo a Giuseppe. Allora, Ciccio, vorrei sapere tu che siti leggi, scusa Ciccio. Parli sempre solo di un determinato argomento. Però non è detto che è morto Schicchi, Ciccio. Conosci Schicchi? È morto Schicchi, poverino. Quindi speriamo che, non lo so, che faranno in televisione su Schicchi, Ciccio, secondo te? Dato che quando muore un personaggio famoso fanno degli speciali su di lui. Vabbè, sicuramente spero faranno qualcosa, non lo so, hanno fatto tantissimo su dei personaggi quali, non lo so, Berlusconi, Corona, quell'altro dove mora, che cazzo. Cioè Schicchi alla fine ha lanciato il porno in Italia, e tutti gli amanti del porno che ci stanno seguendo devono soltanto ringraziare e fare un minuto di silenzio per Schicchi. Cambiamo decisamente pagina. Avendo anche qui in aula un appassionato del, come dire, per un termine per coniare una persona del genere, un collezionista. C'è un nostro amico che colleziona tante cose, però non sappiamo cosa colleziona, però le colleziona. Cioè, ci dicono, aspetta, c'è un aggiornamento riguardo alla notizia di prima. Un nostro ascoltatore ci informa che in America è stata ricoverata una ragazza d'urgenza. Gli hanno fatto la lavanda gastrica e gli hanno trovato nello stomaco 33 centilitri di sperma. Basta queste storie, per favore. Parliamo di copyright e copyleft, Ciccio. Cosa dice questo articolo del copyright, Ciccio? Praticamente dall'Unione Europea si parla di svecchiare il copyright. La Commissione Europea avvia un dibattito per arrivare alla pianificazione di una riforma del diritto d'autore nel 2014, dalle esigenze paneuropee all'ammonizzamento dell'equo compenso. Praticamente, che cosa sta succedendo? Entro la fine del prossimo 2013 i commissari del mercato interno e dell'agenzia digitale dovranno guidare un dialogo strutturato tra i vari portatori di interesse, che si tratti di major discografie e di provider. Questo provider, mi scusi. Questo cosa va ad influire? Va a influire praticamente, non lo so, c'è. Praticamente si va a. Attualmente sono costretti tipo la Apple o la. Altre ditte così sono costrette a siglare differenti accordi per la vendita dei singoli apparati nazionali. Con questo non ci sarà più, va ignorato questo aspetto. Altro aspetto importante è quello comunque degli oscuramenti che si stanno avendo in Italia. Oscuramento a pioggia, praticamente la Guardia di Finanza ordina l'indizione di tutti gli accessi all'Italia ai portatori di Tracker dei vari torrent, e qualcuno qua in aula prima simulava un gesto quasi una lumaca, un escargol, nel senso del succhiare non so cosa, magari forse i vari torrent, succhieremo i vari torrent, no, vorrei sapere la nostra dai nostri ingegneri informatici. Vabbè, su quanto riguarda il copyright, io sono assolutamente contrario al copyright, perché dove c'è copyright non c'è condivisione di saperi, quindi non c'è cultura. Invece c'è una c'è un altro modo per condividere i propri file, che si chiama copyleft. Il copyleft è un metodo generico per rendere un programma libero ed imporre che tutte le modifiche e versioni stesse del programma siano anch'esse software libero. Questo è in informatica, ma c'è anche per i libri, vengono rilasciati sotto copyleft. È un modo come la GNU Foundation, che è stata fondata apposta per condividere software. Esistono diversi progetti a livello mondiale come Linux, il kernel Linux fa parte del progetto GNU, e tanti altri software buonissimi che sono a livello di quelli commerciali. Noi per esempio trasmettiamo su una piattaforma libera come utilizziamo GIS, che è un servizio di streaming gratuito, utilizziamo un sistema operativo Debian e utilizziamo un programma Mix per streamare, quindi usiamo solo programmi liberi, e con programmi liberi si può fare tutto quello che si può fare con il software proprietario. Quindi perché utilizzare questo software proprietario quando possiamo utilizzare questo modo di pensare diverso, che è quello di condividere tutto con tutti, e così tutti noi riusciamo a progredire. Anche perché se io posso leggere il codice sorgente, posso capire i difetti, migliorare questo software, oppure imparare cose nuove che qualcun altro sa e non so. Si può soltanto la testa umana può soltanto progredire con queste nozioni che altrimenti non sarebbero condivise, per esempio utilizzando sistemi come proprietari come Windows e Mac. Tanto per riallacciarci all'informatica. Tu, Olivia, vuoi spendere tue parole sul copyright? Oppure no? Allora, io direi che, come Ciccio, come Giuseppe l'ha detto, veramente, come l'ha detto pure io, come studio informatica, ci sono le cose, diciamo, come il sistema operativo Linux e altri programmi che usiamo tutti i giorni, se dicono di far pagare penso che tutti noi non avremo più il diritto di nemmeno di andare su internet o di usare i nostri computer. Quindi penso che, come Giuseppe e Ciccio l'hanno detto, bisogna fare sapere altre persone, perché penso che tanti non conoscono tutto quello che c'è dietro i copyright o altre leggi. Quindi penso che un modo migliore di dirlo e poi di reagire.

Grazie mille a Ciccio e a Giuseppe e a tutti che stanno ascoltando la radio Clandestino Cint. Vi ringrazio, purtroppo non posso rimanere per tanto. Domani ho lezione presto, quindi ce l'ho pure una cosa che se ciccio tutti questi qua, quindi lo sapete già. E quindi grazie mille, ci vediamo prossimo, futuro prossimo, che lo dice Ciccio. Buona serata a tutti. Un saluto da Olivia, ricordando che anch'io domani ho la lezione alle 8:30 e che noi di Clandestino siamo contro le lezioni alle 8:30 che andrebbero abolite. Quindi un saluto a tutti gli amici che stanno ascoltando e mettiamo un altro pezzo, Ciccio. Andiamo a un pezzo di Dance of Death, va bene? Lo dedichiamo al nostro amico Domenico che è qui con noi. Figures, they were undead, all of them. They had vorrei dedicare il pezzo anche ad Antonio che ci ascolta da Catanzaro Livo. Antonio, da Peppe mi domandava se tua mamma ci tiene a sapere che sei di Catanzaro Lido, cioè che ci stai ascoltando da Catanzaro Lido. Se sei in ascolto, ti prego di rispondere, grazie. Ok, passiamo a un argomento più green. Caro Peppe, anche in Tennessee praticamente si circola in bici, preferibilmente elettroniche, nell'università in Tennessee. Quindi mi sorge spontanea la domanda: ma l'università della Calabria quando si deciderà a dare queste biciclette agli studenti, queste biciclette ammassate nei sottoscala, in aule chiuse e pagate da noi studenti, quando avremo almeno il diritto a usarle? Non sono io certo la persona adatta a risponderti. Non lo so, io la utilizzo la bicicletta. Qui intanto sta accadendo tutto, forse il 21 dicembre sta per arrivare, quindi è molto probabile che ci cade tutto addosso prima del 21, quindi non lo vedremo questo bellissimo giorno in cui tutto finirà, tutto succedono milioni di cose, come dicono tutti questi speciali in televisione, tipo Sandro Giacobbe che fa Voyager, che un giorno e l'altro pure parla di fine del mondo, di Sacro Graal e di Templari. Vabbè, se no, meno male che ci sono queste leggende, così ci sarà il lavoro della gente incompetente come Giacobbo che dicono stronzate in televisione. Va bene, quindi no, non ci sono solo stronzate alla radio come quelle che dico io, ma ci sono anche le stronzate in televisione e sono pure remunerate queste stronzate. E c'è una notizia che riguarda Rand, che in pratica un bambino di 10 anni è salito sul pulmino, però il padre non aveva pagato la tessera del pullman, questo abbonamento mensile, e l'autista l'ha lasciato a piedi a 2 km da casa, un bambino di 10 anni. Non lo so, io resto allibito a una cosa del genere. Ciccio, tu cosa ne pensi? Questa è la politica italiana, no? La politica italiana che si serve dei suoi cittadini, non liberalizzando oppure offrendo diverse opportunità date ai tempi storici, ma che cosa fa? Proibizione, proibizione su proibizione. E allora anche il bambino di 10 anni è giusto che si faccia dei passi a piedi per arrivare a casa, Peppe. A proposito di leggi e non leggi, naturalmente questi sono i passi da gigante che fa il nostro paese, per non parlare della nostra regione. A Milano del tutto, Peppe, che cosa si è deciso? Il GUP di Milano ha condannato sospeso la pena di stalking per un uomo che aveva perseguitato una ragazza di 16 anni, praticamente quest'uomo gli è stata, non si farà nemmeno un anno di galera, ma soltanto 6 mesi, così per la libera informazione. 6 mesi te li fai dentro. Naturalmente lo stalking, che cosa vuoi che sia? Ammazzi di palato una ragazza, la perseguiti, gli rovini la vita, la ragazza che deve andare al pronto soccorso. E niente, la legge va avanti così. Invece di andare avanti, di affacciarci magari da una finestra più grande, andiamo sempre a guardare sotto le scale. E ritorniamo qui con argomenti un po' più leggeri, non lo so. Salutiamo degli amici delle Masonette, che salutiamo Lazar, Olga, Nadia, Maria Baschina, Ferenc, Young Parker, Maria Rosaria, Gardi, Luda, Natasha e tutti gli altri masonettiani, come ci dice Lazar sulla nostra pagina Facebook. C'è una persona che volevo salutare ma non la saluto perché ci ha deluso stasera, quindi lei sa chi è. Mandiamo un altro pezzo. Mandiamo un pezzo di John Lennon. Ciccio vuole aggiungere qualcosa, ovviamente, dato che John Lennon è il suo cantante preferito. Vai, Ciccio. Uno dei preferiti. Comunque c'è stato l'anniversario della morte l'8 dicembre, quindi lo vogliamo ricordare così. Perché noi l'8 dicembre per noi è quell'anniversario di John Lennon. ritornando in studio e salutando un sacco di amici tipo Pierpaolo, salutiamolo, il nostro amico Pierpaolo, che ricordiamo che non è più tra noi, è andato non è più tra noi nel senso che non è più qua a Rende, è andato a lavorare al nord, quindi il nostro emigrante, come tanti nel mondo ci sono, purtroppo si devono spostare dalla propria terra per andare a lavorare. E quindi aspetta un attimo, che c'è troppa saudagi da quello che ci dicono che c'è la saudagi, ma quella ce l'hanno i brasiliani, cara la mia ascoltatrice. Vedi che Pierpaolo ci manca tanto, alla fine ci manca. Sì, comunque vorrei rassicurare tutti, Pierpaolo sta bene, non è in un campo di concentramento a lavorare, è in Italia, non è in un altro paese, cioè alla fine siamo in una nazione, di stare tranquilli anche a Deborah, stai tranquilla, dormi dei sogni felici. Ok, andiamo avanti con le notizie e volevo salutare il nostro ascoltatore, nonché collega di radio che sta, di Londra, e praticamente ascoltando Grand Parade il domenica ci ha citato praticamente sul fatto dei biglietti per Marte, per la Luna, e a riguardo volevo leggere una notizia, una notizia certa è che il biglietto costa poco più di 1 miliardo di euro, ma per 2 persone, andata e ritorno per la Luna. Beppe, se ti va di fare una gita sulla Luna, non lo so, anche per Capodanno, l'altro giorno non sapevi cosa fare per Capodanno, magari te ne vai sulla Luna, 1 miliardo d'euro, Peppe, e ci arrivi, andata e ritorno. Mi verrebbe da citare una persona che una volta fece una battuta, ma non lo faccio perché ho promesso che non facevo battute pessime alla radio, quindi no, non la faccio la battuta. Allora, continuiamo a parlare di uragani che ce l'abbiamo sulla testa, speriamo che non crolli davvero tutto, perché in passato è già successo, quindi io ho memoria storica. Mandiamo il prossimo pezzo invece, e mandiamo un pezzo di Bob Dylan, Ciccio, che è un altro tuo artista preferito, insieme a Bruce Springsteen. Lui, loro due sono i tuoi preferiti, vero? Chiedo a tutti gli ascoltatori di boicottare Bruce Springsteen. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict prancing on the stage. Money drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief. You're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. It may be a state trooper. It may be a young Turk. Maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. cat working on a home. Might be living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord, you may even own banks. But you're gonna have to serve somebody. Serve yes, somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. And maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the, but you're gonna have somebody. Serve somebody. Might like to wear cotton, might like to wear silk. Might like to drink whiskey, might like to drink milk. Might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Now, you may call me Terry, or you may call me Timmy. You may call me Bobby, or you may call me Zimmy. You may call me Ray. You may call me anything. No matter what you say, you're still gonna have to serve somebody. Serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be wrong, and it may be long, but you're gonna have to serve somebody. Clandestino Cid sempre in onda su Fuori Onda Radio. Ci sono dei problemi abbastanza tecnici, si sente malissimo che ti sto perdendo, Peppe. Ti sto perdendo. Sì, la trasmissione ripartirà a breve. Siamo? conversation. You can't even push it. You're talking a lot, but you're not saying anything. But I have nothing to say. My lips are sealed. Say something once. Why say it again? Psycho killer. Kiss, kiss, ma porta pa lo microfono là, beh. Lo porta pa, lo porta pa, guarda, è giallo, senza parlare. Sì. Forse adesso andava bene. Andava? No, porta palla, beh. Sì. Ma va bene, beh. Ci siamo, beh. Ci siamo. Ok, problemi tecnici risolti. Si ritorna sempre 23:46. Clandestino Cheat. Ok. C'era arrivata una chiamastro, ascoltatori. Colpa del tempo, purtroppo c'è un uragano in siamo anzi, lanciamo un SOS. Se qualcuno ci manda, non lo so, un santo, diciamo. Mimmo dice un santo. Certo che il tempo è qualcosa di impressionante. Niente, vi leggo così la notizia che ci arriva. Appunto, abbiamo la nostra chiamata. Pronto? Sì, pronto. Sì, vada, allontani il PC dal telefonino perché si sente, sì. Posso? Vada pure. Ora va meglio? Vada. Allora, niente, io chiamavo in merito alla notizia della pornostar dell'Ucraina, se posso chiedere. Prego. Sto bene, stiamo tutti bene. Sì, mi fa molto piacere. Io mi dispiace non essere intervenuto di persona. Questa sera ci rifaremo lunedì prossimo, se posso ovviamente posticiparla. Ovvio, sarei... Sentivo che si lamentava dal tempo. Sì, il tempo non è dei migliori. Che culo, direi, però, insomma... Allora, io le volevo dire che siccome si parlava di porno e di sesso, ovviamente, io sono interessatissimo. Dica. Direi. Voglio sembrare una telefonata da chart 144, ovviamente. Ma somiglia tantissimo. Io attendo lo streaming, ovviamente. sì, un po' di problemi. Comunque vado pure. Posso? No, io prima di tutto volevo fare i complimenti per la radio, perché è molto interessante. Posso continuare? Sì, continui tranquillamente. La ringrazio. Io volevo chiedere se avete il numero di telefono della signora ucraina, che non ricordo il nome, non vedo da lontano. Anastasia, chiedo scusa. Anastasia, Griscia, se non sbaglio, vedo dal PC. È informato bene. Sì, potete fornirmi un numero di telefono, un recapito mail della signora? Guardi, dica. Le spiego, niente di che, però se ovviamente se ci avete un recapito qualcosa, la contattavo, visto che ha problemi, a quanto ho capito, che in Ucraina non la vogliono, a quanto ho capito. Sì, in Ucraina non le permettono di esercitare la sua professione, questo... Mi dica. In Ucraina non le permettono di esercitare la propria professione. Sì, leggevo questo all'articolo, nel senso che ha dovuto chiedere, a quanto ho capito, asilo politico, se non sbaglio. Sì, in un certo senso. Ecco, eventualmente può esercitare la mia professione presso la mia sede di Cosenza, se non ci sono problemi. Una proposta del genere ci è arrivata già da un nostro amico. Comunque le faremo sapere, non so, apriremo un'indagine per conto suo. Mi dica eventualmente se posso avere qualcosa, un recapito della signora, tranquillamente io posso fornire tutte le informazioni del caso, su se vuole, magari piace gli spaghetti, la pizza, Italia, non so. Ma lei ha intenzione di aprire un traffico illecito di prostituzione oppure tenerla come moglie? Cosa, le sue intenzioni? Allora, come moglie non so, perché guardi, la signora è già sposata, quindi non vorrei avere a carico un figlio, visto che non me lo posso permettere, se non sbaglio, io leggevo sempre. Sì, è sposata. Però eventualmente aprire un traffico per incentivare la mia economia non sarebbe male, se posso, ovviamente. Ok, signor Marco, le faremo sapere al più presto possibile. Gentilissimo, io se le posso chiudere giusto l'intervento, intervenire eventualmente di persona in merito a tutto ciò lunedì prossimo, se non sono indiscreto. L'accetteremo volentieri in studio con noi. Sì, io le ripeto, mi dispiace per il maltempo, ma in bici è veramente un'impresa questa sera, visto il maltempo di Cosenza. Io le volevo fare veramente i complimenti per la radio, è molto interessante ed è molto meglio ascoltare Clandestino Sid e non cagate, diciamo, senza fare ovviamente paragone, cioè non c'è paragone, questo le volevo dire. La ringrazio, gentilissimo, un abbraccio da parte di Peppe, che è ansioso di conoscerla di persona. Assolutamente, io al massimo porto una bottiglia per lunedì prossimo, così avremo modo di dilungarci durante la serata, eventualmente un invito a cena, se non sono indiscreto. Altro che, è un nostro piacere averla a cena e successivamente in radio, oppure potremmo fare cena in radio insieme. Direi, le scoregge ovviamente per radio non passano, quindi la puzza ce la teniamo noi, giusto? Certo. Perfetto, signor Marino, io la ringrazio vivamente e niente, ci rimandiamo allora lunedì prossimo, è un impegno che piglio con tutto il cuore. La ringrazio a lei, buona serata. Io le auguro una buona serata l'ascolto ovviamente nella parte finale della radio, va bene? Buona serata anche a lei, grazie. A lei una buona serata, saluta a Peppe, una buona serata, salve. La saluta, salve. Ecco qui, allora prendiamo come impegno Clandestino Cid, cercherà di ritrovare un contatto telefonico, perlomeno non so, un'email per il nostro ascoltatore Marco. Dopo di questo, Peppe, volevi, non so, salutare Marco di persona, perché ci sta ascoltando ancora. Va bene, salutiamo Marco. Questa è la prima chiamata che abbiamo in diretta da clandestino. Ricordiamo che è Cid, non Sid. Giusto così per ricordare ai nostri ascoltatori. E ricordiamo che ancora non siamo stati. Non abbiamo fatto la prima chiamata Skype, che la faremo molto presto. Mandiamo un pezzo, Ciccio. Un pezzo che anche questo è uno dei tuoi gruppi preferiti, Ciccio, sicuro. Questa qui gliela dedichiamo a Lorenzo Blues. Pure a Marco. Lorenzo Blues, ogni settimana dobbiamo dedicare un pezzo perché c'ha troppo blues, quindi vai. Back with another one of those block rocking beats. Madonna Facebook, non so perché Peppe va, il mio no, va bene. Comunque la notizia era dell'Inghilterra. Un ragazzo, ci sarà un motivo, forse perché io utilizzo software libero e tu sei software proprietario, Ciccio. Forse questo è il motivo, forse è Windows. può darsi, lo chiederemo a chi di competenza, non certo a te, Pep. Comunque, la notizia era di un college del New Jersey ed è un'offerta di lavoro che noi allarghiamo a tutti gli studenti dell'Università della Calabria. Praticamente, che cosa succede? Condom Ambulance è un servizio sicuro e certificato di sesso sicuro a domicilio. Praticamente, questa idea è stata già sperimentata nei paesi del nord Europa. Vediamo quando arriverà. Sicuramente c'è lavoro. Questo qua è un modo sicuro e anzi confortevole per dare aiuto anche agli altri. Che ne pensi, beh? Figura di merda da parte di Peppe, non ascoltava. Saluti conquilini di Peppe. Avviso tutti i nostri ascoltatori che quest'anno Peppe chiuderà il rosso. Il rosso. Andiamo alle notizie, anche se ora è un po' tardi, non ci andrebbe di discutere di determinate cose, ma è doveroso farlo. Questa notizia ci arriva da Milano. Praticamente è stato condannato a 20 anni di carcere l'ex comandante dei carabinieri della stazione di Parabiago, in provincia di Milano. Praticamente la condanna riguarda 13 casi di abusi in caserma da parte del maresciallo. Ancora una volta nel nostro paese la cronaca si tinge di, non lo so che colore, azzurro, nero, tutti i colori della mia vita. Niente, l'ennesimo abuso da parte delle forze dell'ordine contro i civili. Abusi, ricordiamo, che già elencati in passate trasmissioni. Evidentemente qualcuno dice che siamo ripetitivi. Sarà ripetitiva la nostra nazione, o la legge che non funziona, o lo Stato che chissà dove è andato a finire. Forse starà guardando Celebration Day su Italia 1 dei Led Zeppelin, che è in onda da un bel po'. Peppe, non lo so, Ciccio, vogliamo andare con l'ultimo pezzo prima di chiudere, dato che adesso sembra che il tempo si sta calmando e quindi possiamo tornare a casa tranquilli, se no ci tocca sta fare la nottata qui. Andiamo con il prossimo pezzo, che farei introdurre a te, Ciccio. Bene, il pezzo dei Talking Heads, Cycle Killer. Siamo tornati qui in studio dopo questo breve ma intenso pezzo dei Talking Heads, che io studente non conosco, quindi stavo facendo una figura di merda. Va bene, siamo qui in chiusura di trasmissione. Salutiamo tutti gli ascoltatori che fedelmente ci ascoltano ogni lunedì. Diamo l'appuntamento lunedì prossimo, che c'era penso l'ultima trasmissione del 2012, perché poi finirà il mondo, quindi non ne possiamo fare più. Salutiamo i nostri amici che, fedeli come sempre, sono sempre lì dall'inizio alla fine, sono i grandissimi ascoltatori di Clandestino Cid. Palla Ciccio. Sì, è una puntata veramente entusiasmante. Ringrazio tutti indistintamente. Volevo salutare i nostri fedeli ascoltatori e dare l'appuntamento a lunedì prossimo, appunto l'ultima trasmissione prima della chiusura dell'anno. Vi invito ad ascoltare la radio quotidianamente, perché con il nuovo palinsesto avete a disposizione una fascia oraria che va da lunedì a sempre, tutta la settimana. E vi invito a non mancare giorno 12, mercoledì 12 alle ore 21, in aula occupata P2, cubo 40 dell'Università della Calabria, dove si terrà l'evento Musica per l'Ambiente. Chiudiamo la trasmissione con un grande blues, e questa la dedichiamo davvero a Lorenzo Blues, un blues di Napoli, nata a Zulelli, i caffè, Pino Daniele. Nada azule, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azule, le caffè, che sigaretta coppa per non pare. Che stanno chi ne sbaglia, fanno solo un brugno, si lisciano, si fattono, si pigliano un caffè. E noi passiamo le baie, noi non potremmo supportare, e chi sti invece era una mano, si lisciano, si fattono, si mangiano la città. E noi passiamo le baie, noi non potremmo supportare, e chi sti invece nada azule le caffè, acconciamo che chi non può sapere, e noi diremmo a Nanzo che ero l'ure e panza, e invece ci aiuta a buffare i caffè. Nada azule le caffè, che sigaretta coppa per un bere, saizza ne palazzo, fanno cose pazze, ci girano, ci votano, ci vengono i tassi. E noi passiamo le baie, noi non potremmo supportare, e chi sta invece era una mare, sono lisciato, sono fatto, sono magno la città. E noi passiamo le baie, noi non potremmo supportare, e chi sta invece la città.